289. Lingua dolce forte. Prendete una lingua di vitella di latte tutta intera con la sua pappagorgia, perché questa è la parte più delicata. Spellatela e lessatela a mezza cottura. Regolatevi del resto come per il cinghiale del numero 285, servendovi dell'acqua dove ha bollito per finire di cuocerla. Per spellare la lingua, arroventate una paletta e ponetegliela sopra, ripetendo l'operazione diverse volte se occorre.